E siamo rientrati in diretta, purtroppo abbiamo dovuto sfumare lo splendido lavoro di Venex dall'album Vertigo, uscito poco tempo fa, 2015, album splendido. Abbiamo ascoltato ben 20 minuti di apertura di questo flusso sonoro. In ex, insomma, non si smentiscono. Molto bella soprattutto questa parte finale, con questo tappeto pianistico che ricorda molto jazz cosmico degli anni 70, e questo Rhodes, che è ovviamente tributario di tanto jazz elettrico e psichedelico sempre degli anni 70, ricorda appunto quei fraseggi che ricordano The Silent Way, ma molti altri album, anche i lavori a Rhodes di grandi maestri come Herbie Hancock, Joe Zawinul e Chick Corea. Splendido lavoro, dunque Venex, il nostro percorso continua tra scomposizioni e spettralità, ed entriamo proprio dentro completamente la spettralità e il nero pece di certe atmosfere di questo progetto, che in questo album in particolare, molto molto bello, uscito nel 2007, e sicuramente ha stupito anche molti estimatori di questa formazione che precedentemente erano abituati a lavori sicuramente differenti rispetto a questo album. Parliamo di Ultralid, anche qua ritorniamo in terra norvegese, formazione che è cresciuta e nata all'inizio degli anni zero. Il primo album proprio Ultralid era caratterizzato da commistioni tra un jazz molto legato al free e all'improvvisazione, ed elementi addirittura legati a un certo rumorismo anche molto molto forte e spinto da parte di questa formazione, mischiato anche a certe atmosfere metalloidi in alcuni momenti, con molti tributi a grandi sperimentatori, rumoristi e improvvisatori come Brosnan o Painkiller. Dal primo album poi si è passati al successivo album molto acclamato per certi versi, l'album successivo che è uscito appunto dopo l'album di apertura del percorso sonoro di Ultralid, e cioè in particolare Chromosome Gun, uscito 2 anni dopo. Anche qua invece vengono addirittura portati all'estremo gli elementi più frigezzistici, con alcuni elementi addirittura molto molto spinti in alcune dimensioni, legati a un free jazz appunto piuttosto rumorista, con alcuni momenti addirittura death free noise. Però in questo album che adesso andremo a ascoltare, che si inserisce perfettamente rispetto al tema della trasmissione, ed è appunto l'album del 2007, Conditions for Peace Music, ha stupito molti estimatori, molti critici dei Ultralid per la sua trasformazione per certi versi verso una dimensione per certi versi più legata a un'eterogeneità di linguaggi e di sonorità. Sono riusciti veramente a dialettizzare dimensioni sonore che potrebbero cozzare facilmente fra loro, passando da ambient drone a funk, a noise, a score free jazz, verso anche addirittura delle strutturazioni che possono ricordare per compattezza e linearità alcune dimensioni proprio compositive o scompositive, in questo caso più legate al pop. Può sembrare veramente quasi una bestemmia all'interno del linguaggio degli Ultralid. In realtà invece in questo album riescono a costruire un piano sonoro veramente sorprendente, anche dissociante e assolutamente in alcuni momenti impenetrabile. Dimensioni agoscianti, sicuramente parambientali, a calde costruzioni funk, vengono stratificate dentro appunto una grammatica sonora piuttosto complessa e in alcuni momenti isolazionista. La cosa che fa pensare, appunto, che trasmette in termini di sensazione, appunto, una dimensione aliena, alienante e anche spettrale. In questo senso forse è il disco che rappresenta meglio il tema di stasera rispetto a tutti gli altri che abbiamo ascoltato fino ad ora. Dunque ci caliamo dentro, ricordando ovviamente anche i musicisti, i componenti, gli Ultralead, che anzi no, non ve li dico perché sono ben 5 e sono tutti impronunciabili, dunque non voglio cadere dentro una macchietta di me stesso nelle mie pronunce improponibili di artisti norvegesi. Comunque Ultralead li trovate tranquillamente nei siti musicali, non vi sto neanche a indicare, in particolare a Discogs, che noi utilizziamo spesso, e dunque se volete avere maggiori informazioni calatevi dentro questa grande panacea di ogni problema che è appunto la rete, e dunque troverete anche le informazioni di questi 5 musicisti. Andiamoci dunque a calare dentro queste atmosfere che vi ho voluto raccontare attraverso le parole il meglio possibile dall'album Conditions for a Piece of Music, uscito nel 2007, Ultralead. Thank you. Siamo ritornati in diretta dopo queste due tracce di Ultralead dall'album Conditions for a Peace Music 2007, album assolutamente da ascoltare o per coloro che l'avessero già ascoltato da riascoltare, perché è ricco veramente di suggestioni spettrali e appunto molto alienanti, ma anche molto eterogeneo e scomposto nella sua non linearità dell'album stesso. Dunque un disco sicuramente molto molto interessante, che stava assolutamente a pennello rispetto alla tematica di stasera, di scomposizione e spettralità. E ormai siamo giunti alla fine, e dentro l'idea delle scomposizioni non potevano mancare due matti assoluti dei fiati, in particolare Mats Gustafsson, sassofonista più che conosciuto nell'ambito del free jazz e dell'improvvisazione radicale, ma anche quell'altro geniaccio assoluto che spinge addirittura la sperimentazione ai fiati, corni, sax, trombe e quant'altro riguardante gli strumenti a fiato alla massima potenza rumorista, arrivando a delle composizioni, delle decostruzioni sonore assolutamente uniche. Parliamo di Colin Stenton. E Colin Stenson più Mats Gustafsson si sono ritrovati, hanno fatto uscire questo splendido album Stones del 2012, e chiuderemo proprio con questo album il nostro percorso di stasera. Vi ricordo sempre l'appuntamento di 451 Intersezione sulle frequenze di Radio Città Fujiko ogni giovedì dalla mezzanotte fino all'una, una e mezza circa, come facciamo stasera. E dunque vi lascio alle ultime note alienanti e deliranti di Colin Stenson e Mats Gustafsson dall'album Stones, e vi aspetto per giovedì prossimo. Buonanotte da 451 Intersezioni. Thank you.